questo mondo tanto grande, noi siamo tutti dei vicini, dagli Appennini alle Ande, da San Francesco a Pechino. Ce lo dimostra un raccontino di un bel bambino che è un tesoro, Marcellino, pane e vino che racchiude qui nel cuore. Quel piccolo trovatello è stato di posta un dì sulla porta del convento per ripeterci così. Giocami affari, con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che denari, sogniamo solo i milioni. Dimentichiamo le cose belle e quindi nascono dei guai. Marcellino, pane e vino non l'avrebbe fatto mai. I 12 fraticelli ce l'hanno trovato un dì sulla porta del convento, ci ripetono.